have different voices, no flow, no no, 19 years old and all I want to do, Jekyll take voodoo master, no liar, flow maker, no I put you through my man. Fotti col mio flow, tempo ossa, a te tempo dedico, metrico suicidio, il tuo idilio, dillo, dico quel che penso, se un senso, il sesto è più pessimo, al massimo, mastico rime, in primo drastico contatto, metodico, trascino te amico, sul campo del mio micro intrico, rime me stesso in ogni testo, innesto, cresco ogni passo, perso presso il punto fisso, presto ti convinco che io vinco, vinca il migliore, il minore male, non arrivare a te pare, ma sei te che porti sfiga o è la sfiga che porta te. Amen, when you hear me, imagine all the people refer to their sixth sense. All become prayers, so the way is, make your last thing, you've got me but you refuse me now, hate me now, make me bad. Said but true, you had the cake but you didn't use it. Dyslexic MC, pensi che ti penti, pensa che a te menti, mentre a te menti, pensa come ti senti. Sentimenti per chi menti, menti ai tuoi sentimenti, senti, facciamo che non ti cago, fatti d'ago, a te che ti traggo, ti prego, a gogo godo primo, slang monestang, ying e yang, da braga corta, a te che costa, cestina rime, che c'è che stimo, chi stila rime, c'è intestino per certe rime, per altrettanti, altri tanti tenti, mentre menti, certi menti, altri mentre cerchi, punti fermi, altrimenti come ti firmi?